Una rinascita della sinistra, secondo me, non è cosa che riguardi particolarmente il Partito Democratico, ecco, almeno per il momento. Io non ho visto, diciamo, nella proposta politica di Ungaretti nulla che possa essere, diciamo, paragonabile a quello che la sinistra propone, in qualche modo mette in campo in Europa e nel mondo in questo momento. Pensiamo al no alla patrimoniale, pensiamo alla timidezza sull'articolo 18 sui diritti dei lavoratori. Tuttavia, io credo che possa rappresentare una novità importante in quello che fu il campo del centro-sinistra, diciamo così, cioè di un'area moderata che torna a guardare verso sinistra invece che guardare verso destra, come fece il PD nella Renzi. Zingaretti, per stare ai temi che riguardano il Partito Democratico, ha il merito di aver arginato i renziani? Ma io non so se questo sia un merito, io credo che i renziani si siano sostanzialmente arginati da sé, hanno fatto, diciamo, una quantità di danni nei 4-5 anni di regno, diciamo, all'interno del Partito Democratico, qui non basterà una stagione politica per rimediarli tutti, probabilmente. Hanno lasciato un partito in crisi di identità, in difficoltà da un punto di vista organizzativo. Che il popolo del PD volesse liberarsene, insomma, mi sembra una cosa abbastanza scontata a questo punto. Quanto e come riusciranno a riprendersi è tutto da dimostrare. Ovviamente io, dato che credo che non sia mai bene la sparizione di un partito dalla scena, auguro loro di riuscire a riprendersi e tornare a interpretare un ruolo nella storia italiana. Tornando alla questione della sinistra, noi abbiamo osservato fenomeni in giro per il mondo, da Corbyn in Gran Bretagna a Sanders appunto negli Stati Uniti. In Italia il processo non è simile, però. Ma infatti questo credo sia il problema, almeno dal mio punto di vista. Cioè, il congresso del Partito Democratico sarebbe stato interessante, diciamo, anche per me, che non ho mai fatto parte di quella storia, se ci fosse stato almeno un candidato che si fosse credibilmente presentato con una piattaforma di sinistra, apertamente di sinistra. Il fatto che non sia accaduto ha a che fare semplicemente, io credo, con la base di quel partito, con la base sociale, con la base ideale, che ormai si è spostata molto verso il centro, cioè non si sarebbero vinte le primarie del PD con una piattaforma di sinistra. Questo significa che non c'è, diciamo, la necessità di interpretare anche quella proposta in Italia? Io non credo. Ovviamente è molto più difficile, perché è sempre molto più difficile impiantare una proposta radicale su organizzazioni piccole, diciamo, che su un'organizzazione grande, però è quello che standardamente noi continueremo a provare a fare a partire dalle prossime settimane. E quindi in prospettiva, tu dicevi prima, per la sinistra Zingaretti no, ma per il centro-sinistra forse sì, quindi, come dire, la sua presenza rispetto al passato può favorire un dialogo che è mancato poi dalla politica dell'autosufficienza del Partito Democratico? Ma sai, la sola presenza di una persona di solito non significa granché. Diciamo che la storia e la cultura politica di Zingaretti sono completamente diverse della storia della cultura politica di Renzi. Questo fa sì che tutti si aspettano che, diciamo, cambia anche la linea, soprattutto rispetto alla capacità di interpretare un dialogo anche verso sinistra. Ripeto, io non faccio mai né i processi alle intenzioni né, diciamo, mi metto fra quelli che si entusiasmano semplicemente per un nome. La politica è fatta di azioni e di proposte. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.